non devi odiarmi se lei vuole bene a me. Capita ogni giorno quello che è successo a noi. Bisogna saper perdere, bisogna saper perdere, non sempre si può vincere, e allora cosa vuoi? E se tra noi due avesse scelto invece te, ora te lo giuro che in silenzio sparirei. Bisogna saper perdere, bisogna saper perdere, non sempre si può vincere come vuoi e quando vuoi. Quante volte, lo sai, si piange in amore, ma per tutti c'è sempre un giorno di sole. Io non ti vorrei vedere piangere così, non è mia la colpa se non vuole dirti sì. Bisogna saper perdere, lo sai, bisogna saper perdere, non sempre si può vincere ogni volta che tu vuoi. Quante volte, lo sai, si piange d'amore, ma per tutti c'è sempre un giorno di sole. Bisogna saper perdere, lo sai, bisogna saper perdere, yeah. Bisogna saper perdere ed allora dimmi, allora dimmi, allora cosa vuoi?